grazie al silenzio, fragile voce che ormai è un lamento. Senti, senti. Non è mai stato facile fra quelle mura putride. Non è mai stato facile sbattere pugni fino a farti male. Mantenerti instabile, trovare un senso a quell'indifferenza. Fragile voce che ormai è un lamento.